non è una pizzeria proprio, non è una pizzeria, non è un ristorante. Noi della cooperativa sociale La Formica utilizziamo la ristorazione, i piatti di pesce piuttosto che la pizza come pretesto. È un pretesto per poter raggiungere due obiettivi principali che ci siamo dati. Il primo, di dare l'opportunità lavorativa a persone a cui probabilmente un'opportunità nella vita, consentimi tra virgolette, normale non viene offerta. Ci occupiamo di disabilità, ci occupiamo di accogliere persone che vengono da percorsi di difficoltà. L'altro è quello di riuscire a dimostrare che attraverso utilizzando come pretesto la ristorazione si può mettere a sistema tutto un insieme di realtà che sul territorio nazionale fanno economia sociale. Ti faccio qualche esempio così riusciamo anche a capirci. Per noi è un gesto politico utilizzare la mozzarella di bufala realizzata dal caseificio Le Terre Don Peppe di Ana di Libera Terra di Castelvolturno. È un gesto politico usare il caffè realizzato all'interno del carcere femminile di Pozzuoli, non far pagare l'acqua, o utilizzare vini del consorzio NCO, nuova cooperazione organizzata, o creare delle ricette che possano includere quanto più possibile questo tipo di prodotto. Noi per esempio le grandi multinazionali della cola, di cui non posso fare il nome, mi denunciano, noi non le usiamo, sosteniamo per esempio una piccola cooperativa inglese che viene distribuita dalla Gamundi qua in Emilia Romagna, si chiama Ubuntu Cola, che dà il 15% del suo ricavato per progetti in Malawi. Ecco, in sintesi più o meno è questo il motivo per cui noi esistiamo. Quindi insomma già questo fa capire che è un bel progetto sociale, ma come dicevi tu anche appunto uno può pensare che ciò che riguarda il sociale non è rilevante dal punto di vista anche così economico, in realtà sia per quanto riguarda il sistema che avete messo in piedi, sia anche per i riconoscimenti, ad esempio sulla qualità che avete avuto dal Gambero Rosso e anche da TripAdvisor, insomma questa concezione viene smentita. Io faccio mie le parole di Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, il quale dice che dietro ad un prodotto di qualità non può che esserci un progetto di qualità. Ora, spersonalizzando dal sottoscritto questo detto, però è la verità. Per noi la qualità è una conseguenza del modo di ragionare. Sì, siamo stati orgogliosi di essere nominati come pizzeria napoletana, degna di essere all'interno della guida Pizzeria d'Italia 2019 del Gambero Rosso. Siamo felici perché non facciamo compromessi. Quando noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, e ti parlo di persone con ritardo cognitivo piuttosto che sindrome di Down, piuttosto che spettro autistico, quando insegniamo a realizzare una ricetta, gli insegniamo i crismi reali, quindi l'olio extravergine d'oliva che debba essere soltanto di prima premitura, soltanto bio, soltanto noi ne utilizziamo due mulini, uno del Molise e uno del Cilento, le patate soltanto di agricoltura sociale di questo territorio, quindi anche se biologiche, i ragazzi imparano attraverso la cultura del sapore, senza artifici e senza scorciatoie. Volevo farti una domanda proprio relativa a questi ragazzi: che impatto ha avuto sulla loro vita il vostro progetto? Guarda, ti posso dire la verità, che impatto ha avuto sulla nostra vita il loro inserimento. Io voglio farti un bilancio di questi ultimi 2 anni e te lo faccio su una cosa di cronaca. Ieri abbiamo inserito l'ultimo ragazzo a tirocinio formativo. L'educatore di Mattia era la prima volta che ci conosceva perché era già venuto a mangiare, ma non sapeva noi cosa fossimo. Bene, ieri mattina c'è stato un misunderstanding. Lui pensava che dovesse arrivare alle 9, io sono arrivato alle 10:30. Mi ha detto quando sono arrivato: dovrei essere arrabbiato perché ho aspettato 1:30, ma in quest'ora e mezza mi avete riempito il cuore, perché in realtà lui ha potuto vedere con i suoi occhi altri ragazzi che lui seguiva essere cambiati. Mi ha detto: avete fatto un miracolo, ragazzi che erano assolutamente introversi in questo luogo si sentono a casa e quindi riescono a esprimere i propri talenti. Io penso che il beneficio ce l'abbiamo più noi che loro, oppure vedere ragazzi con sindrome di Down che da subito, con la passione per la pizza, non gli è mai stata poche volte l'opportunità di essere assunti. Li abbiamo assunti perché ci danno tanto in termini sia proprio lavorativi. Alessandro, qua stiamo parlando di persone che sanno fare le cose, chiaro, le fanno un po' più lentamente, un po' meno perfettamente, ma non esiste la perfezione al mondo, e noi siamo orgogliosi di poter raccontare che quando ci sarà una forchetta storta sul tavolo della fattoria di Masaniello, piuttosto che un bicchiere non lavato perfettamente, invitiamo a ragionare sul fatto che su quel gesto c'è una persona che sta provando a riappropriarsi della propria vita, essere orgoglioso di essere parte di un progetto, perché noi siamo tutti quanti uguali, normodotati, con sindrome di Down, siamo persone, ci guardiamo negli occhi. E insomma festeggerete questo secondo compleanno alla grande domani pomeriggio con una grande serata, un grande pomeriggio, insomma. Poi facciamo a moine, perché noi ci piace divertirci. La cooperativa si basa veramente sull'allegria, e domani alle 18.30 ci sarà Sandro Rutolo, che è il nostro padrino, ci sarà Stefano Benni, a cui abbiamo dedicato, grazie a Giuseppe Palumba, al lavoro sulla base della storia di Andrea Giordani, un fumetto che si chiama Lieve Lievito. Ci sarà la presidente di Arci, Rossella Vignieri, ci saranno sia Palumbo che Pennino Pellacani, il grafico. Poi c'è una piccola sorpresa che faremo anche a Stefano Benni, declamando alcuni pezzi di un suo libro. E poi la sera saremo tutti quanti a cena a divertirci, perché per noi è importante proprio quello, provare a dare un modello, ma che sia almeno divertente.